Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Olga e Debs. Bentornate e bentornati su Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio su Radio Città Fujiko. Siamo io e Olly questa settimana per riconfermare ancora una volta le nostre passioni e uno dei nostri argomenti storici preferiti, ovvero donne e nel periodo fascista. E come ben sapete, se siete delle nostre care ascoltatrici e ascoltatori, sapete benissimo che io e Olly abbiamo passato tantissimo tempo a parlare del rapporto tra donne e fascismo in ogni salsa. E proprio quest'estate è stato pubblicato un libro che ci è piaciuto molto, che parla dell'esperienza di alcune donne calciatrici milanesi durante il regime fascista. Ovviamente l'abbiamo visto e abbiamo detto: facciamo subito una puntata. Il libro in questione si chiama Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce, scritto da Federica Seneghini, edito da Solferino nel 2020, e all'interno trovate anche un saggio di Marco Gianni. Di cosa parla Giovinette in due parole? È appunto l'esperienza di un gruppo di donne che decide di giocare a calcio durante il regime fascista negli anni 30. A oggi non è molto ben vista una donna che gioca a calcio, sappiamo benissimo quanti luoghi comuni ci sono sopra le donne che fanno questo sport, figuratevi durante il regime fascista. Beh, loro si sono fatte una squadra, si allenavano al parchetto a Milano e poi hanno fatto una vera e propria squadra come si deve, con un allenatore, uno sponsor e così via. Dopo Federica Seneghini interverrà ai nostri microfoni e ci racconterà per bene come ha fatto questo libro e qual è la storia appunto di queste giovani donne durante il fascismo. Adesso però, prima di iniziare, ci ascoltiamo una canzone che si chiama Parlami per sempre di Sic Tamburo, che è un modo anche per salutare Elisabetta Imelio, che è venuta a mancare l'anno scorso, che ha fatto parte anche dei famosissimi Prozac Più. E inoltre anche un impegno da parte nostra per la stagione 2020-2021 da parte di Radio Van Loon di far suonare un po' più di signorine ai nostri microfoni, visto che sicuramente l'approccio femminista alla storia non ci manca, cerchiamo di mettercelo anche nella musica che vogliamo farvi ascoltare. Parlami di come puoi volare e di come non senti più il male. Parlami dell'uomo che hai sognato, di quel giorno poi che l'hai sposato. Parlami di favole malate e del tale che le raccontate. Delle mani che ti sei lavata, della faccia tua che si è girata. Thank you. Siamo tornati e tornati su Radio Città Fucico, questo è Vallune della vostra mezz'ora di storia. Stiamo parlando di un tema storico ma anche attuale. Prima di presentarvi la nostra ospite Federica Seneghini, che ha scritto questo bellissimo romanzo che si chiama Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce, io vi parlo un po' di che cosa significa essere donna, essere calciatrice negli anni 30, negli anni 20 del fascismo. Esiste infatti una contraddittorietà di fondo nella politica fascista rispetto alle donne, questo l'abbiamo sempre detto, che le vuole da un lato partecipi e protagoniste della vita pubblica con lo scopo di forgiare l'uomo, o in questo caso la donna, nuova del millennio che verrà, del millennio fascista. Allo stesso tempo però, dall'altro lato, deve essere la donna, deve essere e rimanere sottomessa all'autorità paterna. Contraddizioni che sono accentuate soprattutto nelle donne che fanno parte del ceto medio, come le protagoniste del nostro libro, del ceto medio urbano, che sono maggiormente coinvolte in processi di modernizzazione attraverso il cinema, i giornali o semplicemente la vita cittadina. Un modello che è molto lontano rispetto alla propaganda ufficiale, che continua a sottolineare come la donna debba essere sposa e madre esemplare. Ma c'è qualcosa di più. L'attenzione al corpo femminile espressa nell'importanza della ginnastica sin da bambini, perché come sappiamo tutti i bambini e tutte le bambine dovevano aderire alle organizzazioni fasciste e praticavano forse per la prima volta in massa l'educazione fisica, da un lato esprimeva delle politiche eugenetiche, quindi razziste e totalitarie, ma dall'altro apriva dei possibili e inediti percorsi di emancipazione per le donne e di costruzione della propria soggettività. Ritroviamo quindi questa contraddittorietà del rapporto donna-regime anche nel rapporto tra regime, donna e sport. Con il fascismo infatti l'educazione fisica diventa per la prima volta un fatto di massa, come dicevo prima, e la diffusione capillare avviene grazie a queste organizzazioni fasciste che per l'infanzia e per l'adolescenza. Lo scopo primario di queste organizzazioni è quello di determinare un miglioramento della razza, dice la propaganda, attraverso sane abitudini sportive, igieniche e alimentari. Nello specifico però, riguardo alla popolazione femminile, l'educazione fisica non avrebbe dovuto modificarne la funzione primaria naturale, che naturalmente è il ruolo di madre. Quindi, sì sport, va bene lo sport per le donne, ma questo sport non deve far diventare le donne mascoline e distratte dal compito di fare figli. L'iniziale entusiasmo, tra virgolette, per lo sport femminile, già dal 1923 vengono create delle squadre di atletica, di ginnastica e di vari altri sport, viene stemperata quando nel 1930, complice la Chiesa, indignata per le grandi parate ginniche di atlete, e spaventati che lo sport, come dicevamo prima, potesse in qualche modo avere un ruolo importante nell'emancipazione, comincia a paventare l'idea di un diverso modo di vedere lo sport femminile, cioè altamente regolamentato e medicalizzato. Da questo momento in poi si dice a chiare lettere una cosa che fino a questo momento era velata: la donna, che è del tutto differente dagli uomini, è prigioniera del suo organo riproduttivo, che costituisce la base del suo ruolo sociale. La ginnastica deve creare donne forti, mi ripeto, per fare i figli. Come dice una nota stampa del 1932, no alla donna dimagrita artificiosamente, che rappresenta il tipo di donna decadente della decadente civiltà occidentale. Quali erano però gli sport che il regime consigliava per le donne? Ginnastica in generale, atletica leggera, tennis, sci, scherma e pattinaggio, da praticare con morigeratezza, il canottaggio, il nuoto, la pallacanestro, che all'epoca si chiama palla al cesto. I giochi maschili, quindi come il calcio, venivano fortemente scoraggiati. Leandro Arpinati, bolognese, all'epoca che era capo del CONI, diede il via libera per la costituzione di una squadra femminile, come vedremo tra poco, ma con regole rigidissime, nel timore che queste ragazze potessero dare scandalo ed essere soprattutto esempio per le altre. Questa bellissima storia però ce la racconta la nostra ospite, la giornalista Federica Seneghini, che quest'anno ha dato alle stampe Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce. Prima di ascoltarla, però, mandiamo un pezzo di Erika Badu. Benvenuta Federica ai microfoni di Radio Città Fujiko. Vuoi raccontarci come ti è venuta l'idea di scrivere Giovinette? Qual è, diciamo, il motivo che ti ha spinto a fare questa ricerca e a scrivere poi questo bellissimo romanzo? Certo, ciao intanto e grazie per l'invito. Guarda, l'idea di scrivere un romanzo sulle giovinette, sulla prima squadra di calcio femminile italiana, è nata l'anno scorso proprio a ridosso dei mondiali di calcio femminili che poi abbiamo visto tutti in TV e che si sono svolti in Francia e con cui abbiamo iniziato a conoscere un po' le nostre calciatrici più forti. E dovevo scrivere un articolo per il Corriere, il giornale per cui lavoro, e in qualche modo mi sono messa sulle tracce della storia del calcio femminile in Italia. Non è stato facile perché appunto i giornali, insomma, le testimonianze non sono mai state molte lungo gli anni. Sono riuscita però ad arrivare alla prima squadra. Siamo nel 1932, quasi 1933, quindi proprio nel cuore degli anni del consenso. E ho ritrovato online questi saggi accademici di Marco Giani, che è il ragazzo ricercatore che firma il saggio alla fine del volume del mio romanzo, che in qualche modo ricostruiva un po' la storia di quella squadra. E con lui siamo andati a trovare, proprio il giorno dopo, siamo a giugno 2019, la signora Grazia Barcellona, che l'anno scorso aveva 90 anni, ed era la nipote di queste calciatrici. Siamo andati a casa sua, lei ci ha aperto la porta di casa, gli archivi, ci ha fatto vedere le foto, e da lì è nata un po' l'idea di raccontare la storia della famiglia di Grazia e che è poi la storia di questa squadra, la storia delle sorelle Boccalini e delle loro amiche che appunto tra il 32 e il 33 fondarono questa squadra milanese. E la storia nasce, la loro storia nasce un po' per caso, iniziano a giocare nei parchi di Milano, un po' per caso, un po' per gioco, un po' perché si divertivano a farlo, e da lì decidono di darsi una forma compiuta, no? Cioè di diventare veramente una squadra, nominando un presidente, trovando un allenatore, facendosi fare delle magliette. Ad un certo punto della storia trovano uno sponsor, che è il Cinzano, e arrivano a essere quasi 50, quindi un numero, diciamo, importante per quei tempi, considerando che appunto non c'era nessun altro in Italia che giocava a calcio, nessun'altra ragazza. Il calcio era invece già ovviamente lo sport più popolare nel nostro, come lo è tuttora. C'era già l'Inter, c'era già il Milan, c'erano i grandi campioni che occupavano gli spazi dei giornali non soltanto con le loro vicende calcistiche ma anche con tutto quello che oggi definiremo gossip, no? Trovavamo già a quel tempo le foto magari dei calciatori fotografati in spiaggia nel loro tempo libero. Il calcio, questo per dire, era già un movimento enorme in Italia, e adesso tentano appunto di imitare i loro idoli. E poi soprattutto era un periodo in cui il regime usava e strumentalizzava lo sport per la fascistizzazione del paese, e quindi ovviamente tutti e tutte erano coinvolte in questo processo. Però appunto le giovinette si mettono proprio in un angolo strano della storia, di questa storia tra sport e fascismo e formazione, perché non era normale che delle donne... Cioè, andava bene lo sport, ma il calcio non andava bene per delle ragazze, quindi hanno dovuto un po' subire e combattere tutti i vari intralci formali e informali che il fascismo gli ha messo davanti. Sì, guarda, gli ostacoli che si trovarono di fronte furono da subito tantissimi. I primi ad opporsi al loro esperimento, come fu chiamato da subito, furono i giornalisti in realtà. Perché le ragazze iniziarono a presentarsi loro stesse ai giornali, mandavano le lettere alle rubriche dei lettori, spiegavano ai giornalisti e alle persone dell'epoca che cosa volevano fare, chi erano. Non avevano intenzione di sfidare il regime, non avrebbero mai potuto farlo perché sarebbero, insomma, avrebbero perso, le avrebbero annientate subito, diciamo. E quindi in qualche modo tentarono di venire a patti con la morale dell'epoca e con le regole dell'epoca e con la morale, dandosi regole diverse. Giocavano per esempio con un pallone più piccolo, con tempi di 20 minuti invece di 45, scendevano in campo con la gonna invece che con i pantaloncini proprio per non far vedere le gambe, e tutto questo perché queste ragazzine erano appunto abituate ad avere a che fare con gli uomini del regime, non avevano mai visto altro nella vita, avevano 15 anni, 16 anni, sì, sapevano con chi avevano a che fare. È una storia comunque anche appunto di giovani, cioè di davvero di ragazze molto giovani e comunque molto agguerrite. A me questa storia è piaciuta perché è una storia appunto che parla del quotidiano, sembra una storia appunto banale, secondaria, ma in realtà ci immerge, ci fa vedere proprio come si poteva vivere, come poteva vivere una ragazza durante il fascismo e come riusciva comunque a trovare dei propri momenti di libertà, rivendicata, consapevole o meno, ma come ci si doveva destreggiare nella vita di una giovane donna durante il regime. E infatti è molto bella la forma che hai scelto per raccontare questa storia, che è la forma del romanzo. E infatti passo subito alla seconda domanda e ti chiedo come è andata diciamo il passaggio dalle fonti storiche, dalle testimonianze alla forma romanzo. Ma guarda, devi considerare che io partivo da una base di, appunto come ti dicevo, di saggi accademici fatti da Marco Giani. Dopodiché io sono una giornalista e il mestiere che faccio, poi il lavoro che faccio tutti i giorni, è quello di arrivare ai lettori, di spiegare ai lettori, di far capire a chi mi legge appunto gli argomenti più vari. E in questo caso il mio obiettivo era far arrivare questa storia alle persone, non tenere questa storia a appannaggio soltanto di magari una nicchia di persone appassionate di calcio storico o una nicchia di persone a cui magari piace la storia e piace il fascismo, nel senso appunto di storia. Storica, sì, certo. Storia, ovviamente. E quindi il romanzo è stata la scelta migliore, secondo me, per appunto far passare il messaggio, far arrivare la storia di Rosetta a un numero più ampio possibile di persone, magari anche dei ragazzini, perché se ti devo dire, uno dei miei obiettivi o comunque una cosa che mi piacerebbe sarebbe che questo libro fosse letto nelle scuole, no? Alle elementari, alle medie, magari anche al liceo, per arrivare alle generazioni più giovani e per far capire che i pregiudizi che magari possono esserci e possono esserci ancora riguardo al calcio femminile, ma in generale alla voglia di essere libere che hanno le ragazze, che hanno sempre avuto, i pregiudizi hanno origini antiche e il modo in cui le hanno provato a affrontarli Rosetta e le loro compagne è stato sicuramente qualcosa che andrebbe studiato e andrebbe ricordato. Sì, soprattutto per la loro caparbietà, per la loro determinazione e per la loro costanza nel comunque voler giocare a calcio e fare quello che volevano, nonostante appunto tutti gli ostacoli. Da, per esempio, mi viene in mente quando sono riuscita a ottenere un certificato da un ginecologo per dimostrare che non faceva male giocare a calcio, ovunque altre vicende, loro comunque sia non si sono mai arrese, solo quando proprio il regime gli ha messo davvero l'ostacolo definitivo di fronte, che non potevano fare i tornei come volevano loro. Comunque poi, adesso non vorrei spoilerare, però questa storia finisce prima del 25 aprile, e però vediamo che comunque le giocatrici riescono comunque a mandare avanti la loro vita sportiva nonostante tutto. E passiamo un po' all'attualità e ti chiedo, visto che sei una giornalista, secondo te a oggi quale sarebbe un buon modo di parlare del rapporto tra donne e sport nella stampa? Appunto, ricordavi i mondiali dell'anno scorso, abbiamo visto anche delle cose non simpaticissime su come venivano raccontate le giocatrici. Ma le giocatrici esistono, le donne che fanno sport esistono, non vengono raccontate tanto, però a volte vediamo che stereotipi, sessismo non mancano, e quindi ti chiedevo, secondo te qual è un buon modo per parlare appunto di donne sport oggi? Ma sicuramente ti posso dire quale non è esatto. Insomma, un buon modo per parlare di donne e sport. Non è oggi molto spesso vediamo titoli o vediamo paginate di giornale, ma anche in TV, di campionesse nelle discipline più varie raccontate magari come mamme, no? Quante esatto. volte abbiamo visto il titolo di mamme campionesse? O chiamate solo col nome, magari non con il cognome. O chiamate solo col nome, ma sono tutti... è un linguaggio che purtroppo non è applicabile soltanto allo sport, ma anche alle donne che magari vincono Nobel o che fanno grandi cose nella scienza, nel campo della cultura. Infatti proprio di questi giorni la nomina dei Nobel per la chimica, e abbiamo visto come sono state trattate dai giornali italiani. Sì, purtroppo c'è ancora molto da fare, e sicuramente gran parte della responsabilità è di noi giornalisti. Un passo alla volta stiamo tentando di migliorare. Sicuramente le generazioni più giovani di giornalisti hanno una responsabilità in più e sappiamo bene cosa non va bene, sappiamo qual è l'obiettivo che dobbiamo avere in mente. Non è facile, e per quel che riguarda lo sport ancora di più. Ti dico solo che alcuni dei dialoghi che io ho messo in bocca alle persone, ai personaggi del mio romanzo, sono dialoghi che io ho ascoltato poi l'anno scorso con amici. La frase "il calcio femminile non è né calcio né femminile" è una frase che è presente nel romanzo, ma che io ho ascoltato l'anno scorso e ho dovuto inventare ben poco per ambientare la storia, per creare dialoghi di chi non credeva nel calcio femminile nel 33, perché sono più o meno gli stessi pregiudizi che sono presenti tuttora tra le persone, ecco. Bene, io ti ringrazio, grazie per questa chiacchierata, in bocca al lupo per la promozione del libro e speriamo di risentirci con una nuova storia. Grazie, e sicuramente ci rivediamo anche a Bologna di persona la settimana prossima. Esatto. E tutti gli appuntamenti sono comunque sulla pagina Facebook del libro, che si chiama Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce. Ringraziamo Federica per questa bella chiacchierata, che è sfociata anche un po' sull'attualità, cosa che ci piace fare. È un libro comunque che vi consigliamo anche per la lettura, davvero piacevole, perché appunto non è un saggio accademico, ma davvero una storia molto scorrevole, molto bella, e a noi di Vallun sicuramente ci piace la storia raccontata attraverso qualcosa che non è il solitaggio che si studia all'università. Inoltre pensavamo mentre venivamo qua con Olga che questa è un'altra piccola storia di resistenza, nel senso, come ci piace spesso dire, la resistenza durante il regime fascista, consapevole o meno, e qua potremmo aprire un dibattito, ma generalmente insomma ci siamo sempre accorti, abbiamo sempre voluto raccontare forme di resistenza davvero diverse, per dire sempre che la resistenza in Italia non è stata solo l'uomo col fucile in montagna, ma ha avuto davvero tantissime forme, e questa secondo noi può essere anche la storia di queste calciatrici, può essere una delle forme di resistenza nel senso di persone che hanno deciso di non sottostare al proprio ruolo di genere, di non sottostare ai diktat del regime. E hanno scelto un modo per non avere una vita banale, una vita imposta. Quindi, consapevolmente o meno, possiamo vedere questa storia da un punto di vista più politico o meno politico, però vediamo che c'è qualcuno che ha detto: io non ci sto e trovo il mio modo di stare al mondo in un modo appunto diverso, un'esistenza che diventa anche una resistenza. Inoltre ci è piaciuto perché abbiamo finalmente la possibilità di portare le esperienze femminili all'interno del mondo sportivo, dove anche da un punto di vista storico sicuramente lo sport ha visto spesso i protagonisti gli uomini, e invece questo è anche un modo per ribaltare alcuni stereotipi di genere. Che, come ci ha detto Federica, esistono tuttora. Io, mentre facevo le ricerche per l'introduzione, mi sono imbattuta in un altro titolo di giornale, perché Federica Seneghini è giornalista e ci diceva appunto come anche adesso ci sono tantissimi stereotipi che viviamo sulla nostra pelle. Nel 1974 si giocò per la prima volta a San Siro la partita Italia-Scozia di calcio femminile, quindi due nazionali. La Gazzetta dello Sport il giorno dopo titola così: "L'Italia sembra l'Olanda, virgola, purtroppo sono donne". Ecco, quindi questo per dire che non ci riduciamo solo al fascismo per vedere, sentire, ascoltare e leggere gli stereotipi di genere rispetto allo sport. Bene, vi diciamo dove potete andare ad ascoltare la presentazione di Giovinette a Bologna la prossima settimana. Federica sarà presente al Centro delle Donne di Via del Piombo 7 a Bologna il 16 ottobre alle 18:30 e sabato 17 ottobre alla Biblioteca di Bentivoglio. Noi vi salutiamo, ma prima Olga vi ricorda il nostro sito. Se volete riascoltare i nostri podcast potete andare ogni lunedì su www.radiovallun2o.info. Buon pomeriggio, ciao! D'acqua e vai a letto, passando sempre sopra mucchi di scassate. Stiamo ora rincalzando, meditando, valutando. I can't get no sleep. Che Milano sembri stanca, torna a casa. I can't get no sleep. Fuori dal controllo sfila. I can't get no sleep. Folla folla avanza, guarda Armani al bar. I can't get no sleep. Milano un doppio standard. Milano 7 di mattina, chiudo in una casa, freddo sulla strada. Welcome, ben trovati, all on board, a me inizia il mese cala. Protagonisti, interpreti, incriminati, assolti, inseguono d'accordo, troppo d'accordo, coreografie di altri tempi. Diamo un occhio ai presenti, alle finestre, spettatori non paganti, dal profilo intollerante a tutto, proprio tutto, tranne che per sesso e soldi. Milano è in coda, ancora in coma. Controlla la cronaca, analizza la rosa. I can't get no sleep. E vedo un giovane quello radioattivo andare in vuoto. I can't get no sleep. Niente la centrale di chiamati outlaw. I can't get no sleep. Appaiono e scompaiono. I can't get no sleep. Come un passo fantasma dentro il musical. I can't get no sleep. I can't get no sleep. I can't get fretta, arrivano, giocano, seminano in panico, osservano e sul muro scrivono. Lui è il sicuro, pensa perché è ricco, niente da perdere, niente paura. Tu dammi, dagli, dacci quattro ore, dagli una casa, una storia più sicura, più sicura. Ehi, questo è il profilo di una città che si deforma, fantasmi, metro quadro, zone d'ombra. Guarda intorno, invisibile, pulpiscono velenose nelle vie respiratorie. Strane storie, scritte sui muri, conto stronzo di cane sui marciapiedi. Milano è questo standard. Milano. Veri falsi problemi.